A bordo campo di Dario Ricci. Musica che solo a sentirla fa venire i brividi, perché è la musica che ci presenta lei, il sacro graal del calcio mondiale, la Champions League. Quella Champions League che sta per cominciare e che ha già cominciato invece a viaggiare per l'Italia con lo UEFA Champions League Trophy Tour presentato da Unicredit, che ha fatto tappa a Milano. E proprio a questo tour oggi dedichiamo, in collaborazione con Unicredit, una puntata speciale di A Bordo Campo, perché Milano dal 13 settembre fino ad oggi, domenica, è stata la prima tappa di un percorso che porterà la Champions League a Torino, Bologna, Palermo e Napoli, e poi anche a Verona, Venezia e Firenze, in un tour per tutta Italia che si concluderà poi il 22 ottobre a Roma. Allora, evento eccezionale perché? Perché la Champions è l'oggetto del desiderio del calcio mondiale, dei tifosi di tutta Europa, ma anche vuole essere una festa del calcio e per tutti gli innamorati del football europeo. Così è stato anche a Milano, con migliaia di persone in fila in questi giorni in Piazza del Duomo per vederla, fotografarla, rispecchiarcisi dentro, non toccarla, perché quel privilegio l'avrà solo il capitano della squadra campione d'Europa nella finale di maggio a Wembley. Ma insomma, per sentire questa Champions, questa coppa dalle grandi orecchie vicina nella piazza, in una delle piazze più prestigiose d'Italia. E poi è stata anche la festa del calcio, la festa dei bambini. Basti pensare al torneo che oggi ha animato proprio qui a Milano la presenza della Champions, 32 squadre con i bambini del centro sportivo italiano, i bambini nati fra il 2000 e il 2001, quei bambini che già sognano i loro campioni e che chissà, magari qualcuno in futuro quella coppa la conquisterà. Grandi protagonisti quindi di questa tappa milanese, di questa prima prestigiosissima tappa milanese del viaggio della Champions in Italia, sono state la coppa e la gente, proprio il due cuori pulsanti del calcio e della passione che ci avvicina a questo sport, malgrado i tanti paradossi, i tanti scandali. Rimane questo amore indiscusso e indiscutibile tra questo oggetto del desiderio e i tifosi che tramite i loro campioni vogliono anch'essi stringere questa coppa straordinaria. E allora sentiamo proprio le voci di questi tifosi a Milano, abbiamo detto, però tanti anche i tifosi della Juventus, che quest'anno ritrova la Champions che rappresenta l'Italia insieme al Milan, che hanno voluto anche venire da Torino per vederla da vicino, anche se poi Torino sarà proprio la seconda tappa di questo tour. Ma insomma, prima la si vede meglio è questa coppa, e soprattutto sognando di poterla poi alzare al cielo in quella che sarà la magica notte di Wembley. Pronti per la foto con la Champions League? Da vicino fa un bel effetto, eh? Sì, io farebbe un effetto migliore vederla alzare da Buffon quest'anno. Ah, sei juventino? Juventino. Quindi Juventus che torna in Champions. Beh, intanto però tu fai la foto, diciamo 1-0 per te rispetto a Buffon, no? Per il momento tu sei più vicino. Per il momento sono vicino io, ma col cuore siamo vicini tutti gli juventini. Quest'anno torniamo, quest'anno faremo grandi cose. Sì, è stato bello conoscerlo. Sono io in Venezuela, no. Mai visto la coppa, e quindi è bellissimo questo. Ecco, da vicino che effetto ti fa la coppa? Non voglio prenderla, ma non so, voglio prenderla con me a casa. Occhio che qua c'è la sicurezza però, eh. Eh sì, claro, certo, ma io ci provo. Ci provo anch'io. Per chi tifi? Milano Inter. Io per nessuno dei due, perché sono genuano. Ah, quindi insomma sei venuto a posto per la Champions. Sì, assolutamente sì, perché comunque è un trofeo talmente ambizioso che non potevo esimermi dal venire, ecco. Allora, vederla così da vicino che effetto fa? È un effetto sicuramente diverso rispetto all'approccio televisivo, ovviamente. Chi la vince quest'anno? Non lo so, spero un'italiana. Tutta la famiglia pronta per la foto con la Champions, vedo mamma, papà, lui come Roberto. Si... Quanto ha? 7 mesi, 7 mesi ieri. Quindi prima Champions League a 7 mesi, direi che è record. Esatto, io direi che inizia bene, promette bene. Sentite, anche la mamma vicino alla Coppa, bella emozione, no? Sì, è molto emozionante. Interisti o milanisti? Io direi la terza, juventini. Ah, quindi tanti juventini che sono venuti a vederla da vicino. Beh, direi che la Coppa è bella a prescindere dalla squadra, no? Che la vince. Intanto Roberto si mangia il microfono. Signora, intanto la Coppa la vincete voi, poi Buffon magari la alza a Wembley, vediamo esatto, un po'. Esatto, speriamo. Speriamo che la alzi. Festa di piazza, festa di popolo, quindi l'arrivo della Coppa della Champions League qui a Milano è anche festa cittadina che rimanda ai progetti sportivi del comune che inevitabilmente nella presenza di Milan e Inter ha uno dei suoi poli d'eccellenza per quanto riguarda lo sport milanese. E allora sentiamo proprio l'assessore al benessere, alla qualità della vita, dello sport e del tempo libero di Milano, Chiara Bisconti, che ha salutato così il passaggio della Coppa qui per Piazza Duomo qui a Milano. Città che se la merita, abbiamo sentito 10 volte, quindi la prima città in Europa come numero di Champions vinte, averla in Piazza Duomo ovviamente fisicamente qua è un bellissimo messaggio di vicinanza alle persone, quindi l'auspicio che tante cittadine e cittadini vengano, la guardino, non la tocchino ma si avvicinino, portarla in mezzo in piazza, in mezzo alla gente è veramente una cosa che a noi piace molto, su cui noi siamo molto vicini come amministrazione. Milano si sta anche preparando invece ad accogliere la finale nei prossimi anni, quindi è veramente un lavoro di grande sinergia, di valorizzazione reciproca con UEFA e con i loro progetti. Eh sì, la presenza in piazza sta proprio a significare il desiderio di volere una coppa più umana, no? Anche se poi è difficile sempre scindere il calcio degli affari con quello che è il pallone, il piacere del gioco, un po' questo è l'obiettivo anche per voi del comune. Sì, è difficile, ma è la strada anche sottolineata da Unicredit, su cui siamo molto in sintonia, anche tutto il ragionamento sugli stadi che non devono più essere vuoti e che si svuotano anche un po' per la paura di un tifo più aggressivo e più estremamente competitivo e non invece giocoso e festoso come quello come dovrebbe essere. Quindi questa iniziativa mi piace molto proprio perché riavvicina e pur tenendo tutta la magia di questa Coppa la porta vicino alla gente, che è dove deve stare. Per Milano obiettivo 2015, Expo e finale di Champions, volendo far scommetterci sopra, quante possibilità ci sono per realizzare questo sogno della Champions a Milano? Ma non scommetto, però confermo che ci stiamo preparando con molta molta attenzione, quindi noi confidiamo di essere pronti con il lavoro per cui noi si possa essere un candidato già per il 2015. Quindi io non scommetto sul successo, ma confermo che ci stiamo lavorando con grande attenzione. E allora staremo a vedere, speriamo davvero che la finalissima torni in Italia dopo quella splendida del 2009 a Roma, vinta dal Barcellona sul Manchester United. A proposito, durante le varie tappe del UEFA Champions League Trophy Tour c'è anche la possibilità di ammirare molti dei cimeli dei grandi campioni che hanno scritto la storia della Champions League, su tutti, ad esempio proprio le scarpe indossate da Lionel Messi in quella magica serata romana. Tour che, come abbiamo detto, ha avuto in Milano solamente la prima tappa e che di fatto fa parte di una visione della Champions League ancora più ampia, che anima anche Unicredit come sponsor principale di questo tour e della stessa Champions League. Allora sentiamo Paolo Fiorentino, vice direttore generale di Unicredit. Grandissimo entusiasmo, andremo poi in giro per l'Italia, saremo a Roma, Bologna, Napoli, Palermo, Torino, Verona, passeremo per Venezia, per Firenze, quindi sarà veramente una cavalcata in Italia. Speriamo di avere lo stesso livello di entusiasmo che abbiamo avuto l'anno scorso girando per l'Europa. Io ho ancora negli occhi l'immagine della lunga fila di persone, la Piazza Rossa di Mosca, che aspettava di entrare per farsi fotografare con la Champions League. Quindi abbiamo creato effettivamente, insieme agli amici dell'UEFA, un grande evento che rende un po' più umana questa Champions League, che è ormai un'icona dell'immaginario collettivo. È una coppa che, così come è strutturata, vi piace anche dal punto di vista di sponsorship e mediaticamente, oppure si può immaginare un futuro, e se sì quale? Per noi è una storia di grandissimo successo, cioè quello che gli obiettivi che ci eravamo proposti, che era di rinforzare la nostra immagine, sono stati ampiamente superati. In più dico che i numeri sono impressionanti, il miliardo di persone che in un modo o nell'altro vede la finale della Champions League in diretta, cioè sono numeri veramente impressionanti. È difficile immaginare che qualsiasi sia l'evoluzione organizzativa si possa andare verso, come dire, un moltiplicatore rispetto a questi numeri. Quindi benvengano se ci sono dei miglioramenti, ma direi che questa dell'organizzazione Champions League è veramente una bella storia di successo e la dimostrazione di come anche lo sport possa diventare un vero business, di fatto. Ora una breve pausa, poi ancora insieme qui a Bordo Campo per questa puntata speciale dedicata interamente alla Champions League. A Bordo Campo. In principio era la Coppa Campioni, in principio fu il Real Madrid di Puskas, di Stefano Gento, che conquistò quella magica Coppa per 5 edizioni consecutive. Storia che affonda nelle radici del calcio mondiale ed europeo, quella della Coppa Campioni, della Champions League, che in questi giorni porta in giro per l'Italia, grazie alla UEFA Champions League Trophy Tour presentato da Unicredit, la Coppa dalle grandi orecchie, l'oggetto del desiderio di tutti i club e di tutti i tifosi d'Europa. Ebbene, abbiamo voluto ripercorrere, anzi vogliamo ripercorrere, la storia della Coppa Campioni e della Champions League attraverso le testimonianze di 3 grandi campioni, notissimi a tutti i tifosi italiani, che hanno vissuto in epoche diverse la Coppa Campioni, la Champions League, la sua magia, il fascino di quella Coppa che da Milano ha iniziato questo tour che si concluderà a Roma il 22 ottobre. Ricordo le tappe: Torino, Bologna, Palermo, Napoli e poi anche Verona, Venezia e Firenze. Insomma, la Coppa attraverserà tutta l'Italia per incontrare la gente, i tifosi, i fan. E allora il primo grande campione che ci racconta la sua Coppa Campioni è Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter degli anni sul finire degli anni 70, inizio anni 80. Quella coppa lui l'ha solo sfiorata, e sentite come scherza al nostro microfono a proposito degli anni che passano, ma della magia e dell'emozione che certo non cambia. La grande emozione, però mi deve aiutare una cosa: siccome io ho giocato la Coppa Campioni e questa mi hanno detto che si chiama Champions League, è la stessa roba? È super giù, sì, questa è la figlia di quella coppa. È vero, dai. Cioè, stavo cercando di ricordare se ai tempi miei c'era la musichetta. No, no, la musichetta, niente. No. Però c'era la Coppa dei Campioni e quando entravi in uno stadio che c'era, insomma, pubblico interista, gli anni lì con Real Madrid, insomma 80.000 persone, mi ricordo che sicuramente le gambe tremavano già, che poi dopo a livello sportivo è sempre gratificante, perché aver avuto la fortuna di giocare contro grandi campioni come Santillana, Camacho, Juanito, insomma, peccato, insomma, siamo sempre arrivati lì in semifinale, mai in finale, però la soddisfazione di aver partecipato a questa grande competizione. Grazie Evaristo, buona Champions. Ciao, buona Coppa Campioni. Sempre simpatico Evaristo Beccalossi, un altro grande campione che ha attraversato sia la storia della Coppa Campioni con la maglia del Milan, il grandissimo Milan di Sacchi, sia quella della Champions con la maglia del Chelsea, che guarda caso è proprio il detentore del trofeo, è l'immenso Ruud Gullit. 1989-1990, due successi consecutivi per il Milan di Gullit e Van Basten, e i due olandesi siglano soprattutto quello che è il successo dell'89, 4-0 all'Steaua nella finale di Barcellona, doppietta di Van Basten e doppietta di Gullit, e alla fine l'emozione incontenibile attraverso la voce di Bruno Pizzul, sentite. Ha ormai deposto le armi, l'Steaua finisce, il Milan vince la Coppa dei Campioni 4-0, è un trionfo straordinario, è un trionfo incredibile. Jacques Georges, presidente dell'UEFA, massima organizzazione continentale, consegna la Coppa dei Campioni al capitano del Milan, Franco Baresi. Milan stellare che concederà il bis a Vienna 12 mesi dopo, 1-0 contro il Benfica. Ruud Gullit ricorda così quelle emozioni che allora per lui non volevano dire solamente trofei vinti sul campo di calcio, ma anche battaglie sociali e politiche che quel Gullit combatteva anche a bordo campo. Sentite un po'. Sì, per me è emozionante, perché di alzare questa coppa due volte in seguito non è facile. Ricordo che dedicasti il pallone d'oro e anche quei successi a Nelson Mandela, no? Il mondo è cambiato in quegli anni, ma forse quel legame con quella battaglia è rimasto vivo. Per me è stato anche significante che quanto potere ha anche il calcio, di avere così tanta attenzione a un problema umano. Sono tornato anche un paio di volte in Sudafrica, sentire la gente che sono stata in prigione, che hanno sentito che io ho dedicato questo premio in prigione, per me è dato ancora più emozione, perché non pensavo a questo. Allora mi hanno anche detto che avevano paura che la gente volevano togliere il mio premio, così erano ancora nel pensiero di questo regime, no? Sì, è speciale. Un messaggio al Milan di oggi che si avvicina a questa Champions con tutt'altre prospettive in quest'anno di rinascita. No, credere in se stesso è una cosa più importante. Adesso i giovani hanno l'opportunità di farsi vedere. Io auguro ancora il Milan che sarà vincente. E allora un Milan ancora vincente si augura Ruud Gullit. Alla finestra invece un altro grande campione dell'Inter, perché quest'anno l'Inter è in Europa League, ma Luis Figo la coppa dalle grandi orecchie l'ha sollevata al cielo da protagonista come giocatore con la maglia del Real Madrid. 2002, finale di Glasgow, Real Madrid che batte il Bayern Leverkusen per 2-1, decide un gol che è già leggenda, siglato da Zinedine Zidane. That's a good ball for Roberto Carlos, hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic! Straordinaria quella prodezza di Zinedine Zidane, e oggi Figo, ambasciatore Unicredit e anche della stessa Inter, ha accolto così la Coppa Campioni, la Champions League nella sua tappa milanese. Nessuno meglio al posto di qua in Duomo per partire un nuovo trophy tour della UEFA Champions League. Hai vissuto la Champions con tante maglie importantissime, Barcellona, Real Madrid, Inter, e hai sollevato questa coppa nel 2002 in quella grande finale di Glasgow. Il ricordo più bello di quella serata? Posso alzare la coppa? Credo che è sempre il momento di più soddisfazione, perché lavoro tanto per arrivare a quel momento, tanto sacrificio, che alla fine è un'esplosione di adrenalina e della tensione accumulata. No? Aver vissuto la Champions in queste grandi piazze, no? Barcellona, Madrid e Milano, quali sono le differenze? Hai trovato delle differenze nell'avvicinarsi a questa coppa magica? No, io credo che la differenza la fanno le persone. L'emozione di vivere il calcio anche dipende un po' dalla cultura del paese, però mi ha trovato bene in le tre parti. No? Quest'anno grande favorito il Real Madrid di Mourinho, a sottolineare che c'è una via portoghese a questa Champions. Sarà ancora duello Barcellona-Real Madrid o vedi anche possibili altri protagonisti? Sì, teorico favorito, però credo che anche tedeschi, Bayern Munich, Manchester United, Chelsea, credo che sono squadre sempre tenere in conto, anche l'italiana dipende da come va avanti la competizione. L'anno scorso il campione simbolo è stato Didier Drogba, no? per la fantastica finale che ha giocato. Quest'anno chi potrebbe essere il giocatore simbolo di questa Champions? Non lo so, quello è difficile da rispondere. Ti direi Messi o Cristiano, così è più facile, no? Le voci dei tifosi, le voci dei grandi campioni che ci restituiscono l'emozione della Champions League, ma la UEFA Champions League è anche numeri, è anche storia, è anche cifre imponenti, e allora... I numeri della Champions. ...220 paesi e territori, oltre 80.000 ore di copertura in diretta e in differita, in evidenza e riviste in tutto il mondo, oltre 19.000 ore di copertura in diretta a livello planetario. A ogni incontro della UEFA Champions League, pensate, assistono in diretta 82 milioni di spettatori a livello globale, e si stima che la copertura globale degli incontri in diretta sia di 1,1 miliardi di spettatori nel totale a livello mondiale. Pensate, ultima finale, quella tra Bayern Monaco e Chelsea, la stima parla di 170 milioni di spettatori. Ebbene, vi abbiamo raccontato le emozioni della Champions League, e questi numeri ci ricordano perché questo è il grande sogno dei tifosi e dei campioni di tutta Europa. I numeri della Champions, in collaborazione con Unicredit. Per questa puntata davvero speciale di A Bordo Campo è tutto, un grazie sentito a Pietro Lacorte in regia, e vi ricordo che potete scriverci alla nostra mail abordocampo@radio24.it, riascoltarci attraverso il nostro sito web e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sul nostro sito internet. Continueremo a seguire il viaggio della Champions League attraverso l'Italia, e l'appuntamento con A Bordo Campo è, come d'abitudine, domenica prossima alle 14.30 e ogni sabato in replica alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.